Il segreto è il controllo mentale. Non vedi ciò che vedi, vedi ciò che appare. Non è solo poesia che mi brucia dentro, ma resto immobile aspettando, penso. Che mi brucia dentro, dentro, dentro, dentro. E non è solo poesia che mi brucia dentro.